La storia e la memoria di Dino Pesole. Il Politecnico di Milano compie 150 anni, un secolo e mezzo che il più antico Ateneo Meneghino ha attraversato, accompagnando, spesso anticipando le profonde trasformazioni, soprattutto scientifiche, del nostro paese, dall'Unità d'Italia oggi. Facciamo un passo indietro, è il 29 novembre del 1863, giorno in cui viene fondato l'Istituto Tecnico Superiore, ben presto chiamato da tutti il Politecnico, sotto la guida di Francesco Brioschi. All'iniziativa prendono parte le amministrazioni locali, Comune e Provincia di Milano, la Camera di Commercio, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, associazioni culturali e imprenditoriali. La sede è presso il Collegio Elvetico nell'attuale Via Senato. L'Istituto Tecnico Superiore si ispira al modello dei politecnici di area svizzero-tedesca. Promuove una cultura tecnico-scientifica imperniata sulla specializzazione e diviene in breve tempo il fulcro di tutte le iniziative formative e divulgative in ambito tecnico-scientifico, il centro propulsore della ricerca applicata e il luogo di sperimentazione al quale ricorrono gli imprenditori, contribuendo così allo sviluppo dell'intero paese. Il fermento che si manifesta in Lombardia a partire dagli anni 30 dell'Ottocento, peraltro frenato da numerosi limiti di natura politica, sociale ed economica, induce gli intellettuali più attenti a quanto avviene in Europa a considerare l'intelligenza un fattore economico al pari dei capitali, della manodopera e delle infrastrutture. A favore di uno sviluppo dell'istruzione tecnico-scientifica, indicata come una delle principali fonti di progresso, si esprimono sia i gruppi imprenditoriali più consapevoli delle esigenze della nuova agricoltura e delle attività manifatturiere in fase di crescita, sia gli intellettuali e gli economisti, impegnati nel promuovere il processo di modernizzazione del paese. Regole severe per la frequenza ai corsi e a tutte le iniziative messe in atto dell'istituto, rigide disposizioni disciplinari. Questo tratto caratterizza l'attività del Politecnico fin dagli esordi. Gli studenti sono tenuti a seguire le lezioni, che si svolgono da lunedì a sabato pomeriggio, e partecipare ai laboratori, alle esercitazioni pratiche, alle verifiche scritte, ai viaggi di istruzione che hanno come meta gli opifici, i centri industriali, le costruzioni civili, le esposizioni industriali internazionali e le città d'arte. Nel corso di queste visite, gli studenti osservano i processi produttivi e ne discutono successivamente durante le lezioni. I primi 25 laureati si ebbero nel 1865. Negli anni seguenti, iscritti e laureati crescono progressivamente fino alla Prima Guerra Mondiale. Verso la fine degli anni Ottanta dell'Ottocento, in concomitanza con l'avvio del processo di industrializzazione, il numero degli ingegneri industriali, fino ad allora minoritario, comincia ad aumentare e alla fine del secolo uguaglia e poi supera quello degli ingegneri civili. Questi stessi anni fanno registrare le prime presenze femminili. La prima iscritta, Tatiana V. Denison, è del 1888, ma per avere la prima laureata, Gaetanina Calvi, ingegnere civile, si deve attendere il 1913. Qualche anno dopo, nel 1918, si laurea in ingegneria industriale Maria Artini, la prima elettrotecnica italiana. Nel settore dell'architettura, le prime laureate, Carla Maria Bassi ed Elvira Morassi, sono del 1928. Negli anni seguenti, la presenza femminile al Politecnico diviene una costante, seppur numericamente esigua, e intorno al 1940, su 9.500 laureati, le donne sono un centinaio. Più in generale, all'incremento nel periodo giolittiano, seguito all'impennata degli anni 1919-22, dovuta alle agevolazioni concesse agli studenti reduci di guerra, segue un periodo di regresso imputabile sia all'applicazione della legge Gentile sull'ordinamento universitario, che limita l'accesso all'istruzione superiore ai provenienti dal liceo e introduce l'obbligo dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, sia alla crisi economica dei primi anni 30. Il boom delle iscrizioni, e seppur in misura minore dei laureati, è tuttavia da ascrivere alla seconda metà degli anni 70, una crescita che si consolida ed è caratterizzata da una presenza femminile complessivamente contenuta in ingegneria più consistente ad architettura, dove nei primi anni 90 si verifica il cosiddetto sorpasso rosa, mentre pari al 50% degli iscritti a disegno industriale alla fine degli anni 90. 150 anni dopo, dunque, il Politecnico di Milano è la più grande scuola di architettura, design e ingegneria d'Italia ed è considerata tra le migliori università scientifico-tecnologiche del mondo. Di tutto questo parliamo questa sera con il professor Federico Bucci, che è delegato del rettore per gli archivi e il sistema bibliotecario ed è uno storico dell'architettura soprattutto. Buonasera, professore. Sì, buonasera. Ci racconti un po' dal suo angolo visuale di storico come l'Istituto, il Politecnico di Milano ha vissuto questi 150 anni. Ah, sono 150 anni volati in un baleno, direi, dal punto di vista del tempo storico, perché sì, chi con la prospettiva dello storico ovviamente è abituati a pensarlo in tempi lunghi, questo qui si è rapidamente, sono rapidamente bruciati i tempi, anche ad esempio la questione delle iscrizioni femminili è straordinaria, come pensare oggi appunto quante siano le studentesse di ingegneria, architettura e design che affollano i banchi del Politecnico, quindi un tempo che si è macinato e che si è compresso molto velocemente in questi 150 anni. Questo forse è l'aspetto più bello e più importante da segnalare. Ecco, naturalmente il Politecnico si distingue in particolare per la specializzazione nei settori scientifici e dunque su questo può vantare un primato assoluto. Nel corso, ecco, soffermiamoci nell'ultimo dopoguerra, professore, qual è stata l'influenza, chiamiamola culturale, del Politecnico di Milano nell'avanzare delle nostre conoscenze nel settore scientifico in particolare? Beh, se vogliamo fermarci anche a alcuni grandi personaggi, non so, sì, penso a Giulio Natte, insomma, avere un premio Nobel della chimica che fin dagli anni 50 conduceva all'interno dei locali appunto di Piazza Leonardo da Vinci esperimenti che poi hanno portato al famoso segno nell'agenda di Natta, fatto il proprio polipropilene, insomma, se pensiamo a una cosa di questo genere, oppure a tanti altri esperimenti che in quel momento, negli anni, proprio tra gli anni 50 e 60, penso al professor Luigi Dadda, che poi è diventato poi rettore del Politecnico, quando ha portato in Italia al Politecnico il primo calcolatore elettronico che aveva avuto modo di realizzare negli Stati Uniti e portato appunto in Italia con un avventuroso viaggio in nave. Sono tanti, insomma, gli episodi, penso a tutti gli ingegneri meccanici che hanno lavorato nel campo dell'aeronautica, della meccanica, insomma, sono veramente numerosi. La cosa molto importante forse da segnalare è che in quel piccolo luogo, appunto, Piazza Leonardo da Vinci, avvenivano dei miracoli straordinari, degli esperimenti importanti e pionieristici che poi di cui abbiamo visto lo sviluppo solo molto più avanti, forse. Ecco, la storia di 150 anni del Politecnico di Milano comunque è un esempio molto importante, soprattutto quando in Italia da noi tradizionalmente si parla sempre dell'estero come dei luoghi privilegiati dove mandare a studiare i figli. In questo caso il Politecnico rappresenta un'eccellenza dal punto di vista della formazione. Quindi lei ritiene che da questo punto di vista si possa guardare con maggiore ottimismo al futuro? Guardi, noi guardando, le lo dico un po' partigiano come storico, certo, però devo dire che anche presentando queste iniziative agli altri colleghi e soprattutto agli studenti, insomma, abbiamo guardato con orgoglio a questi 150 anni, scoprendo anche pagine nuove, no, della storia che conoscevamo più o meno, insomma, adesso l'abbiamo un pochino approfondito. Le guardiamo con orgoglio pensando al futuro, pensando ai prossimi anni che noi vedremo e poi soprattutto gli anni che vedranno i nostri studenti e gli studenti che verranno. Beh, c'è molto da fare ancora, ma abbiamo fatto tanto. Cioè, questa storia ha veramente sedimentato un terreno fertile sul quale costruire qualcosa di importante nel futuro. Quindi ci crediamo molto, crediamo nel nostro passato e crediamo che il nostro futuro possa essere sicuramente, possa portare sicuramente altri e ulteriori successi. Bene, allora grazie professore, tanti auguri al Politecnico di Milano che compie ben 150 anni. 150 anni, perfetto. Buona serata, grazie ancora. Grazie, grazie a lei, grazie.